benzina, delle automobili incendiate che usavamo per liberarci dalla TV. Sarà l'ombra degli alberi a sera che porta quel dolore strano di cose andate a male, di nostalgia. Di vino, incerti pomeriggi di luce, scambiati per gli abbagli di un sogno non mio. Saranno macchine